I don't believe in an isolationist policy, but I also believe a policy of trade should be a fair policy. Vabbè, non ha una brutta voce però il signor Trump. No? No, che cosa ne no, pensate? No. Io se adesso dobbiamo richiamare anche il professor al nostro Fussi. Ospite. Allora, perché vi abbiamo proposto Trump? Perché lo utilizziamo un po' per traghettarci da una parte all'altra del nostro programma. Perché dall'inizio dell'anno il signor Donald Trump ha messo il turbo ai mercati finanziari internazionali. Adesso invece, per colpa di Donald Trump, sembra che si cominci a premere il freno, in particolare a Wall Street, dove sta tornando un po' di cautela. Questi sono alcuni dei punti che affronteremo oggi, ma ce ne sono anche altri. Ci sono i temi europei, c'è il risveglio dell'inflazione, ci sono le imminenti elezioni francesi, anche se poi il risultato elettorale olandese recente ha ridimensionato le preoccupazioni di chi teme l'ondata populista. Bisognerà fare qualche considerazione anche su quanto accaduto a Londra nelle ultime ore, per capire se anche questo tema può essere un tema che fa tornare qualche preoccupazione fra gli investitori. E oggi ce ne mettiamo insieme anche un altro di argomento, anzi ho deciso che partiremo proprio da questo. 10 anni fa scoppiava la crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti, allora oggi proveremo a fare un bilancio, o chissà, sarà il caso magari di stendere un velo pietoso su quello che è successo negli ultimi 10 anni, o decidiamo di andare avanti. Guardiamo, sentiamo anzi. Investire informati. La foto con le scatole di cartone riempite degli effetti personali dei dipendenti di Lehman Brothers. La gran parte di noi associa a questa immagine il ricordo della tempesta finanziaria che ci ha investito negli scorsi anni. Era il 14 settembre del 2008, ma in realtà le cose iniziarono a non girare per il verso giusto già più di un anno prima, quando il pubblico iniziò a familiarizzare con i subprime, i mutui concessi con eccessiva disinvoltura alle famiglie meno solide negli Stati Uniti, e con molte diavolerie finanziarie che permisero la propagazione del virus in tutto il mondo con una rapidità senza precedenti. È nel marzo del 2007, se proprio si vuole stabilire un punto di partenza, che si hanno i primi eventi di rilievo. Il 12 del mese le azioni di una società poco conosciuta, New Century Financial, che come attività principale aveva appunto la concessione di mutui subprime, vengono sospese perché è a rischio la solvibilità dell'azienda stessa. Pochi si rendono conto della portata dell'annuncio, ma da lì in poi sarà un continuo crescendo di eventi che coinvolgerà prima il resto degli Stati Uniti, poi il mondo intero. Lorenzo Alfieri, Country Head Italia di JP Morgan Asset Management, ben ritrovato per il nostro appuntamento con Investire Informati. Magari se gli mettiamo il microfono sentiamo anche la voce. Sì, buona mattina a tutti. Carmelo era rapito dalla nostra scheda e quindi insomma non ha gestito adeguatamente il mixer. Volevamo vedere se, come dire, verificare se la voce, esatto, se fosse afono. Perfetta. O meno. Allora, 10 anni di vita finanziaria. Intanto volevo anche magari coinvolgere su questo anniversario i nostri ascoltatori all'800240024, così richiamando un po' la memoria, gli episodi più importanti che hanno contraddistinto questo decennio. Qual è magari il fatto che vi ha colpito di più? Così fate un po' mente locale. La lezione più importante probabilmente che è stata impartita ai risparmiatori da questo decennio così complesso è che abbiamo appreso che fatti finanziari che possono capitare anche molto lontani da noi, in realtà poi nel giro di poco arrivano dritti anche nel nostro portafoglio. Per cui questo è sicuramente un po' l'argomento che poi interessare prevalentemente gli amici che ci seguono da casa. Per quello che riguarda invece gli operatori finanziari professionali, dottor Alfieri, gli anniversari in genere sono delle ricorrenze positive da celebrare e festeggiare. In questo caso forse un po' meno, magari avremmo fatto a meno, no? Di questi 10 anni di passione, che peraltro sono pesati molto anche sull'Italia, che forse è uno dei pochi paesi che non riesce a venire fuori da un tunnel di crisi che ancora pesa. Ma insomma, se la facessi partire oggi con una riflessione impegnativa, che lezioni ci lascia questo decennio che abbiamo richiamato? Anche tra l'altro non ho ricordato che quello che abbiamo letto era un pezzettino di un articolo di Maximilian Cellino del Sole 24 Ore. Ma sicuramente, dovendo guardare indietro all'origine ovviamente di questa difficile stagione, probabilmente una delle lezioni è che in finanza, nei mercati finanziari, non esistono i cosiddetti pasti gratis, nel senso che gli investimenti, pensando di avere ottimi rendimenti senza nessun rischio, ahimè è una chimera che si è completamente dissolta, e quindi inevitabilmente bisogna approcciare i mercati finanziari con maggiore consapevolezza, maggiori informazioni, flussi informativi, prodotti più semplici e trasparenti. Questo non necessariamente solo da parte dell'investitore risparmiatore, ma anche dagli attori, i protagonisti, cioè chi crea prodotti finanziari. Probabilmente questo è quello che emerge chiaro ed evidente per evitare in futuro crisi così ampie, globali, come quelle che si sono scatenate dopo il 2007-2008. Richiamavamo nel brano dell'articolo che abbiamo letto prima l'inizio appunto di questa crisi provocate in qualche maniera dal fatto che l'amministrazione Bush voleva riconoscere a tutti i cittadini americani l'opportunità di comprarsi una casa, e quindi i mutui subprime, perché erano concessi anche a chi aveva dei profili di rischio molto alti. Ma il tema importante è stato che poi questo rischio si è in qualche maniera propagato su tutto il mercato attraverso il meccanismo dei prodotti derivati, delle cartolarizzazioni, le abbiamo chiamate nel pezzo le diavolerie finanziarie, che spesso erano sintetizzate da sigle complesse, esoteriche, i CDS, gli ABS, i CDO. Oggi sui mercati finanziari, dottor Alfieri, probabilmente, forse noi non li vediamo, ma i rischi finanziari si corrono ancora. Ci sono ancora le cartolarizzazioni, i prodotti derivati. L'industria finanziaria li usa con un po' più di buon senso o ancora, come dire, i livelli di rischio sono alti? Ma lo scenario, il panorama, possiamo dire, è molto cambiato. Non ci dimentichiamo che sono intervenute una serie di regolamentazioni molto rigide sia negli Stati Uniti che in Europa e comunque a livello internazionale. Molte banche, sappiamo, hanno abbandonato certe attività. Sono state accusate ovviamente di svolgere un'attività tipo gli hedge fund, come gli hedge fund ora non è più possibile. I controlli interni sono notevolmente aumentati, diciamo che sono state introdotte una serie di presidi che prima non c'erano. È molto migliorato il flusso informativo, sono entrate in funzione delle modalità di comunicazione e informazione sui prodotti finanziari all'investitore finale, che prima non c'erano. Direi che anche c'è stata una forte evoluzione nelle modalità di informazione. Non ci dimentichiamo ad esempio che molto è stato fatto anche nel flusso informativo quotidiano. Internet, per esempio, ha aiutato molto. Abbiamo siti specializzati, blog, centri di, diciamo, consultazione globale aperta. Questo è stato un fatto positivo. È sicuramente un fatto positivo, perché lì ovviamente c'è la possibilità, accedendo a questi siti, a questi blog, anche di avere magari informazioni. Ecco, bisogna sempre valutarle molto attentamente, certo, che siano informazioni corrette e giuste, ma comunque si è, per così dire, moltiplicata la possibilità, è aumentata la possibilità di avere informazioni. C'è il dottor Google anche nella finanza, vedi, Nicoletta, come tu per sai, esatto, come per la salute. Allora, 800 24 00 24, torno a ricordarvi il nostro numero verde se volete condividere con noi un pensiero su questo decennio che ci stiamo lasciando alle spalle. Sono ormai passati 10 anni dallo scoppio della crisi dei mutui subprime, sembra ieri, in cui raccontavo di giornate di borsa in cui i mercati perdevano il 7, l'8, il 10%, per poi recuperare il giorno dopo altrettanto, una volatilità incredibile, soprattutto nell'autunno del 2008, dopo la bancarotta di Lehman Brothers. Ma come ricordavamo prima, la crisi appunto in realtà è scoppiata molto prima, con le prime insolvenze su questi mutui concessi a chi aveva profili di rischio molto alti negli Stati Uniti, e poi ce la siamo portata anche in Europa, e qualche paese come l'Italia ancora fa fatica ad uscire da quel tunnel. Lo strascico c'è ancora. Siamo partiti da una celebrazione un po' particolare che hanno richiamato anche molti giornali in questi giorni. Sono passati 10 anni da quando è scoppiata la crisi dei mutui subprime e siamo ancora abituati a riportare indietro le lancette dell'orologio al settembre del 2008, quando si è consumata la bancarotta di Lehman Brothers, ma in realtà il tutto partì almeno 1 anno e mezzo prima, quando cominciarono a verificarsi sul mercato americano le prime insolvenze da mutuo, i primi cittadini che non riuscivano appunto a ad assolvere a questo impegno finanziario. Da lì poi tutta la propagazione del problema non solo al mondo finanziario americano ma anche a quello europeo, e poi da lì la crisi globale. Siamo partiti da questo per la nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Con noi questa mattina Lorenzo Alfieri, Country Head Italia di JP Morgan Asset Management, ma in realtà vorremmo un po' adesso capire in questo momento che tipo di situazione stiamo vivendo sul mercato finanziario. All'inizio abbiamo richiamato anche la voce di Donald Trump, perché è un po' Donald Trump ancora una volta il catalizzatore dell'attenzione generale. Allora, subito dopo la sua elezione, a sorpresa, il mercato americano ha preso a correre grazie alle sue promesse di grandi stimoli fiscali, di grandi investimenti infrastrutturali. Il Sole 24 Ore ricorda questa mattina come lui chiamò il suo piano di rilancio dell'economia americana fenomenale. Adesso è molto in ritardo l'amministrazione americana, perché deve fare conti anche chiaramente con il Congresso, con chi è dalla sua parte o meno, e questo ritardo significa che questo piano di stimolo infrastrutturale, industriale, economico e fiscale non vedrà la luce prima della prossima estate. Da lì il mercato americano, Alfieri, ha cominciato a mettere il piede sul freno, a muoversi con cautela. Un paio di giorni fa c'è stato un ribasso abbastanza consistente per gli standard americani di più di un punto, adesso invece è un po' più stabilizzata la situazione, ma insomma, che riflessioni dobbiamo fare sull'andamento di Wall Street? Beh, innanzitutto ricordiamo che i mercati finanziari non possono salire all'infinito, ecco, e non ci dimentichiamo appunto che proprio a seguito della sorprendente elezione di Trump, soprattutto i mercati finanziari americani da una parte e il dollaro dall'altra hanno avuto un'impetuosa crescita. Ora, quello che sta avvenendo giustamente sui mercati è una pausa di riflessione. Il mercato, gli Stati Uniti, l'economia americana continua ad andare particolarmente bene. Tassi di crescita superiore al 2% previsti per il 2017 e per il 2018. Quasi la piena occupazione, che è un tema molto importante. Gli utili delle aziende americane sono cresciute, dovrebbero crescere intorno all'8% circa. Ecco. Attualmente ovviamente i mercati hanno scontato ampiamente questa diciamo crescita, e in più hanno scontato in parte anche l'effetto Trump. L'effetto Trump è un effetto che può valere circa un 0,3-0,5 all'anno, che in parte è già stato scontato, in parte no. Ecco, 0,305 in termini di crescita PIL, ulteriore di PIL. E questo ovviamente è il problema principale, cioè evidentemente se Trump riuscirà a mettere in atto tutte le misure che ha promesso, probabilmente potremmo andare circa a una crescita intorno al 3% quasi. Poi con tutto questo lavoro che crea dovrà anche richiamare i messicani a lavorare sul territorio americano. Probabilmente. Però, tornando appunto ai mercati finanziari, quindi noi ci troviamo a metà strada. Abbiamo già scontato un'economia americana che è cresciuta e dobbiamo vedere se Trump riuscirà a mettere in atto le sue manovre e ovviamente a questo punto permettere all'economia americana di correre ulteriormente. Una fase di rallentamento, di diciamo riflessione, è assolutamente auspicabile, perché non si può correre senza avere dall'altra dei concreti risultati. Quindi e questo è quello che emerge. Non deve sorprendere e soprattutto deve anche invitare alla cautela il piccolo risparmiatore, che sentendo parlare adesso della corsa che ha fatto Wall Street vuole salire su questo treno in corsa, magari appunto ora, e rischia naturalmente di farsi male. Detto ciò, se lo volesse fare adesso, ognuno può fare quello quello che vuole, però poi non si aspetti una crescita vistosa nel giro di poco tempo. Tra l'altro, proprio sul tema del trumpismo, i primi 100 giorni, voi dedicherete una conferenza al Salone del Risparmio, dove saremo anche noi, lo cominciamo a ricordare, Nicoletta, l'11, 12 e 13 aprile, 3 giorni in diretta con gli studi di Radio 24. Faremo anche noi una conferenza, ma questo ve lo racconto dopo. Ci anticipi qualcosa della vostra invece, Alfieri? No, appunto vogliamo, direi a proposito a questo punto, tirare le somme di 100 giorni di Trump, vedere effettivamente ciò che è stato realmente fatto di ciò che era stato promesso, vedere anche le prospettive che potranno realizzarsi, senza ovviamente cadere nell'utopia. Bisogna vedere realisticamente, pragmaticamente, quello che Trump potrà fare e quindi gli effetti benefici sia sull'economia che sulla borsa e sui mercati finanziari e sul dollaro, perché ovviamente non ci dimentichiamo che Trump ovviamente ha fatto delle promesse molto importanti, molto impegnative, ma proprio perché molto impegnative bisognerà poi verificare se saranno realizzabili, in quale percentuale, in quale modo. Adesso le faccio un'altra domanda su Trump, prima però che faccio? Faccio il domandone, Nicoletta, mi sei piace, d'accordo? Sì. Sì, perché adesso abbiamo anche la voce perfetta per rispondere, abbiamo tutto. Allora, America, Stati Uniti, banche centrali. Proprio la settimana scorsa la banca centrale americana, la Federal Reserve, ha alzato i tassi di interesse per la seconda volta in 3 mesi. Diteci in che, come si dice in gergo finanziario, range li ha portati. Non è una cifra secca, ma è un altro corridoio alzato verso l'alto, appunto, rispetto a quello precedentemente fissato. Siamo pronti e pronte, anzi, con i nostri libri, 800 24 00 24, appunto, per ricevere la vostra risposta. Vediamo un po' se avete seguito le notizie che abbiamo dato in questi ultimi giorni. Detto questo, appunto, sempre a proposito di Trump, ma perché è tanto importante, dottor Alfieri, marcare stretto l'operato del neopresidente americano in un contesto, appunto, di mercati finanziari assolutamente globali, con la Cina e l'India che hanno il loro peso, ma anche tante altre economie? È ancora così rilevante tutto quello che arriva dagli Stati Uniti in termini di informazioni, stato di salute dell'economia, delle aziende quotate, il dollaro, l'andamento del dollaro? Ma sicuramente, diciamo, in una fase in cui l'Europa non vede tassi di crescita particolarmente eccitanti, con un rallentamento progressivo, assolutamente relativo però realistico, della Cina, e con i paesi emergenti che sono un po' in affanno, chiaro che il ruolo degli Stati Uniti ritorna ad essere principale, molto importante, molto rilevante, e l'incognita Trump, arrivando ovviamente e non prevista, con l'obiettivo di rilanciare fortemente l'economia americana, rappresenta ovviamente un elemento molto importante di riferimento per i mercati finanziari, per questa stagione finanziaria. E quindi, ecco, per questo motivo si fa molta attenzione a quello che potrà realizzare e effettivamente la fattibilità delle sue manovre. Salire su questo treno in corsa adesso rischia di far fare qualche errore a qualche risparmiatore, oppure con un po' di prudenza si può cogliere anche questo momento? Ma se dovessimo guardare ai mercati finanziari americani, ovviamente stiamo parlando di mercati finanziari che sono ben prezzati, come si suol dire, cioè dove trovare effettivamente nicchie e aree di sottovalutazione è molto difficile. Sicuramente il dollaro rimarrà una valuta tutto sommato abbastanza forte, è difficile prevedere sue forti svalutazioni, quindi investire in dollaro in questo momento significa investire su una valuta di un paese, di un'economia che sta crescendo, però molta molta attenzione. Entrare sul mercato azionario americano in questo momento è può essere fatto, ma con molta attenzione, ripeto, sempre come al solito, evitare il fai da te e farlo attraverso fondi specializzati. Senta, ci vuole molta selezione. No, infatti, a proposito di questo e a proposito di dollaro, abbiamo visto che però negli ultimi giorni l'euro ha rifatto qualche passo avanti rispetto al biglietto verde. Ieri a Nicoletta è piaciuto molto il termine che ho utilizzato, l'euro flirta con 1,08 rispetto alla divisa statunitense. È coerente questo movimento invece con la scelta che ha fatto la settimana scorsa la Banca Centrale Americana, appunto, di aumentare i tassi? Ma dunque, è ovvio che da una parte abbiamo un rialzo dei tassi della Federal Reserve che è... Non dica quanto stato, perché è un domandone. No, era stato ampiamente scontato e evidentemente, fermo così restando le cose, ce ne potrebbero essere uno o altri due entro la fine dell'anno. Quindi i mercati, anche valutari, stavano già scontando ampiamente questo rialzo dei tassi. Dall'altra parte, come correttamente è stato evidenziato prima, dall'altra parte il dollaro è salito anche sull'aspettativa di una forte crescita indotta ovviamente dalle nuove dirompenti manovre messe in atto da Trump. Ecco, questo è un punto ovviamente che ancora non si è verificato, quindi molti investitori in questo momento dicono: bene, il dollaro è salito, abbiamo scontato ampiamente il rialzo dei tassi, non vediamo Trump che riesce effettivamente ad partire con le sue manovre, e allora forse è meglio prendere un attimo di pausa. E quindi ecco che in questo momento il dollaro si è indebolito, non ci dimentichiamo, non solo rispetto all'euro ma anche rispetto alle altre valute, soprattutto dei paesi emergenti. Quindi è una fase, direi, più che altro di riflessione sulla forza del dollaro. Ha detto anche una parola corretta poco fa lei, pausa, è quella che ci dobbiamo prendere. Tra l'altro c'è anche attesa, questo magari lo utilizzeremo come argomento più avanti, per una bella puntata complessiva di Cuore e Denari, perché il signor Trump sta anche cancellando la riforma sanitaria di Obama. Magari metteremo insieme un approfondimento alla Cuore e Denari su questo tema specifico, che comunque ha anche condizionato la borsa. Per l'ultima parte della trasmissione però ci teniamo da parte adesso qualche tema europeo, e anticipo già a Lorenzo Alfieri che gli voglio chiedere se tra gli investitori qualche riflessione ieri tra le sale operative è stata fatta sull'attentato di Londra, se questo focolaio costantemente acceso di terrorismo internazionale, appunto, in qualche maniera vi condiziona nell'operatività e anche nella progettualità degli investimenti. E niente, quando io e Nicoletta ci vestiamo da Mike Bongiorno e Sabina Ciuffini, il domandone va sempre alla grande: chi preferisci essere tu dei due? Dai, un po' per uno. Mike, devo fare io. Allora, la domanda era: la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha alzato i tassi di interesse la settimana scorsa. In che corridoio li ha portati? Tanti state rispondendo correttamente. Qua oggi dovremmo dare via un sacco di libri. 800 24 00 24, il numero vero, liberiamo le nostre scrivanie imbarazzanti. E ci sono anche altri ascoltatori con altre riflessioni. Adesso vediamo se riusciamo appunto a mettere in onda qualcuno. Dottor Alfieri, andiamo un po' invece da questa parte dell'oceano. Le preoccupazioni per il terrorismo ci sono fra gli operatori, condizionano un po' la vostra operatività quotidiana, dicevo prima, ma anche la vostra progettualità in termini di scenari di investimento. Sembra ovviamente triste dirlo, ma i mercati finanziari non sembrano essere influenzati quando ovviamente si parla di atti di terrorismo. Ovviamente invece rimangono molto più colpiti da situazioni, ad esempio, di politica, scenari geopolitici che possono cambiare. Ecco, questi sono gli elementi che possono veramente condizionare sia le scelte quotidiane che le scelte strategiche di portafoglio. Raccontava Vittorio Carlini sul Sole 24 Ore che l'unico effetto che ieri pomeriggio si è visto è stato per un attimo una discesa poi subito recuperata della sterlina, e una piccola poi più 3% in realtà per una giornata sui mercati finanziari e tanto fiammata del prezzo dell'oro, ma già poi nel giro di poche ore si è tutto ridimensionato. Allora andiamo agli Stati Uniti, no? Agli Stati Europei. Dopo l'Olanda, dottor Alfieri, parliamo di elezioni, appunto, si è ricomposto il timore che il possibile risultato francese possa essere un po' orientato al populismo, oppure no, insomma, qual è adesso a questo punto la vostra considerazione sulla variabile politica e l'impatto sui mercati finanziari europei? Ci sono due importanti appuntamenti elettorali, dopo la Francia c'è la Germania anche in settembre. Sì, una premessa importante: i mercati europei sono stati per molto tempo tra virgolette dimenticati dagli investitori, proprio perché l'alto livello di conflittualità politica ovviamente ha fatto preferire gli investitori altre aree, prima fra tutte gli Stati Uniti. Diciamo che dall'inizio dell'anno invece il quadro economico in Europa è migliore rispetto alle aspettative. Crescita, inflazione tutto sommato sotto controllo, risultati di valutazione prospettica da parte degli investitori in Europa e degli imprenditori molto positive, superiori alle aspettative. Tutto questo sta facendo diciamo rivalutare i mercati europei da parte degli investitori. Negli ultime settimane poi il fatto che tutto sommato in Olanda la tornata elettorale è risultata migliore delle aspettative. Sappiamo che in Francia il dibattito è molto acceso, ma sembra che ovviamente una soluzione estrema... signora Le Pen sia un po' più sottotono adesso. Un po' più sottotono. Ecco, tutto questo sta facendo tornare un interesse prevalente a un'area di investimento, l'Europa, che è chiaramente sottovalutata rispetto ad esempio agli Stati Uniti. E questo, per rispondere un po' alla domanda, è in questo momento le pressioni e i timori politici e geopolitici sono diminuiti in Europa e sta prevalendo ovviamente quello che è la realtà dei fatti, cioè un'economia che comunque è in crescita, utili aziendali in Europa che potrebbero essere superiori al 10%, quindi superiore alla crescita che sta registrando l'economia americana e gli utili delle aziende americane, e per questo motivo quindi in questa fase addirittura l'Europa è preferibile rispetto ad altre aree. Addirittura. Allora, in realtà non riesco ad affrontare la questione dell'inflazione, che è un tema su cui magari faremo una bella puntata in un'altra circostanza, perché darei spazio ai nostri ascoltatori, sia che ha risposto al nostro domandone, ma anche a Franco da Bologna, che invece ha una domanda molto articolata che ci fa così un po' girare il nostro mappamondo. Franco, benvenuto. Buongiorno ragazze. Buongiorno. Ci dica. Allora, io volevo sapere se è ancora il momento di mantenere in portafoglio fondi comuni azionari di India, Cina, paesi emergenti, Europa e America. Ah vabbè, ma tutto il mondo. Allora... Lei. Senta Franco, ma intanto bisogna vedere che risultati le danno, è contento, da quanto tempo ce li ha, che sì, orizzonte temporale ha. Adesso sono contento. Ecco, allora il tempo... Mantengo. Franco, le serve questo denaro domani mattina? Perché anche questa è la domanda che un consulente le farebbe. Vuole fare dei regali a me e a Deborah? Ecco. Nell'immediato? Se mi venite a trovare, sì. No, Alfieri, ammettendo di farsi una chiacchierata con il suo consulente finanziario, insomma, Franco, quali aspetti deve considerare? Se è il caso di disinvestire o meno? Chiaramente non entro negli aspetti personali, perché non so quanto è esposto sull'azionario, da quanto tempo le tieni, la visione, la sua prospettiva. Questi, da quello che ho capito, sono tutti azionari. Però dovendo dare una risposta, qual è la visione nostra sui mercati azionari, in generale, come è emerso da quello che ho detto prima, attualmente, visto il ciclo economico favorevole, visto che i livelli inflazionistici attesi sono tutto sommato contenuti, l'azionario rimane al primo posto come scelta di investimento. In generale possiamo dire che stiamo recuperando interesse verso i mercati emergenti come dicevo prima, attenzione maggiore sul mercato azionario americano, mentre sull'Europa diciamo la nostra valutazione è che i mercati azionari europei potrebbero proseguire nella loro crescita. Insomma, se Franco è contento e qualche risultato lo ha portato a casa, io consoliderei anche una parte, magari comincerei un po' a proteggerla, ne manterrei magari una fetta più contenuta, non so, dipende sempre un po' da che orizzonte temporale ha e a che cosa gli serve. Bruno dalla provincia di Prato, lei ha la risposta per il domandone, ha studiato? Sì, dunque il range di riferimento è 0,75-1%. E bravo Bruno qua che si guadagna l'applauso, libri a volontà e soprattutto ha avuto il piacere di chiacchierare con noi. Allora ci rimangono 40 secondi di tempo, Alfieri, la domanda a piacere come nell'interrogazione, che un'ultima raccomandazione da dare ai risparmiatori in questo momento quale potrebbe essere, oltre a quella di venirci a trovare tutti quanti al Salone del Risparmio, dove ci sarà anche la conferenza di Radio 24 dal titolo Diseducato a chi sull'educazione finanziaria? Ma come dicevo, siamo in una fase ovviamente un po' più tranquilla, c'è meno volatilità, ma non per questo bisogna abbassare la guardia, rimanere sempre molto diversificati. Ad esempio nel mercato obbligazionario, che piace sempre molto all'investitore italiano, bisogna stare molto attenti. Ad esempio noi predileggiamo investimenti su fondi obbligazionari veramente flessibili. Mm-hmm. In questo momento ci possono essere diciamo dei rialzi dell'inflazione imprevedibili, che potrebbero ovviamente danneggiare il mercato obbligazionario. Per questo bisogna evidentemente approcciare l'investimento proteggersi obbligazionario da questo scenario. Grazie a Lorenzo Alfieri. Investire informati e Cuore Denari termina qui, ma domani torna. E certo, dove vuoi andare? Venerdì. Buona giornata a tutti.